Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Dunque, subito ricordiamo la mail alla quale scrivere per segnalare casi quanto più possibile di interesse di una vasta collettività e non soltanto di chi scrive, perché quelli, e ne arrivano a decine, non li prendo neppure in considerazione. Allora, la mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, negli anni abbiamo assistito, soltanto per rimanere agli anni più vicini a noi, a pecore con la lingua blu, mucche pazze, ultimamente maiali e bovini alla diossina, ma in realtà di abusi alimentari si parla durante tutto l'arco dell'anno. E senza che spesso questo abbia le prime pagine dei giornali, come in questi casi che ho appena descritto, la Guardia di Finanza e le stesse ASL, segnatamente i reparti di veterinaria, quotidianamente intervengono sul campo per evitare che in commercio vengano messe e immesse sostanze pericolose, nocive, dannose per la salute o addirittura, come il caso che tratteremo oggi, frutti di mare, che sono una delle cose più amate dagli italiani, soprattutto in questo periodo in cui ci accingiamo a festeggiare durante le feste. È bene sapere che possiamo contare su una serie di controlli e su una serie, diciamo così, di spettri di analisi che dovrebbero, non dico tranquillizzarci, perché purtroppo chi su queste malefatte campa continuerà a farlo sempre, però sappiamo che i controlli comunque ci sono. E noi parliamo proprio di un'operazione che è stata recentemente condotta nel porto di Torre Annunziata, quindi siamo praticamente attaccati a Napoli, possiamo dire senza soluzione di continuità. Torre Annunziata è un paese di oltre 100.000 abitanti, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 10 tonnellate di mitili abusivamente coltivati proprio nel porto di Torre Annunziata. Per parlare di questo caso, ma poi per ampliare il discorso, noi abbiamo collegato con noi il tenente colonnello Gennaro Ottaiano, che è il comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata. Buongiorno Taiano. Buongiorno a lei. Ma ne parliamo anche con il dottor Enzo Caputo, che è il coordinatore dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL Napoli 1. Buongiorno Caputo. Buongiorno. Ottaiano, partiamo proprio dalla vostra operazione e la domanda che le vorrei fare soprattutto è questo: ma com'è possibile che vengano coltivate abusivamente tonnellate di mitili in un porto, nel porto di Torre Annunziata? Più che allevamento si tratta di stoccaggio di frutti di mare, perché in realtà questi frutti di mare sono stati importati dalla Spagna, nel caso specifico. Soprattutto in questo periodo, perché i frutti di mare locali sono in una fase di crescita, quindi non sono idonei all'alimentazione in quanto piccoli. Quindi questi sono frutti di mare che sono stati acquistati nei mesi addietro, prevalentemente dalle nostre informazioni, dalla Spagna, poi fanno un grosso quantitativo, vengono stoccati in acque portuali e là continuano a crescere. Ecco, quindi diciamo non esiste una fase iniziale all'interno del porto di Torre Annunziata in cui però diciamo così vengono messi lì a crescere, a mangiare, diciamo ad alimentarsi. Esatto. Ecco, ma voi come avete scoperto questo stoccaggio, se preferiamo, diciamo così, questo allevamento in itinere nel porto di Torre Annunziata? Noi comunque controlliamo il porto anche come servizio specifico della Guardia di Finanza, facciamo un'attività doganale nell'ambito del porto, quindi comunque controlliamo il territorio che di nostra competenza, con soffermi, appostamenti, informazioni, acquisiamo informazioni sul territorio. In particolare, come lei diceva giustamente in premessa, purtroppo questi reiterano le loro condotte criminali, questo non è uno sporadico sequestro, questo è uno dei tanti sequestri. Se lei considera che negli ultimi 5 anni abbiamo sequestrato 400 tonnellate di frutti di mare, lei capisce che noi adesso abbiamo, ovviamente, avendo a cuore la salute dei nostri cittadini, monitoriamo le acque del porto, anche da questo punto di vista, non solo dal doganale ma anche dal punto di vista della sicurezza alimentare. E quindi pensiamo anche quanti pericoli si corrono, e per questo dico dobbiamo anche cercare di aiutarci da noi, nel senso non possiamo chiudere gli occhi quando ci accorgiamo e notiamo questi atteggiamenti criminali. Lo dico perché comunque sia, noi abbiamo innanzitutto come cittadini il dovere di denunciare ogni cosa che non va. Esatto, questo è importante che venga pubblicizzato, perché il cittadino deve essere cosciente che ci sono le forze di polizia, l'ASL, perché noi comunque questo intervento l'abbiamo fatto unitamente all'ASL, poi l'ASL i rilievi, e quindi ha fatto le analisi e beh, ci ha dato ragione dicendo che erano frutti di mare tossici, quindi assolutamente non destinabili alla commercializzazione, quindi all'alimentazione umana. Benissimo, allora io, visto che anche lei l'ha chiamata in causa, passerei proprio la parola alla ASL numero 1 di Napoli. Ricordiamo che l'ASL Napoli 1 è la più grande forse in Europa, e quindi chiederei a Caputo che serie di iniziative voi mettete in campo nel corso dell'anno, che serie di controlli per evitare appunto che ci siano questi abusi, veri e propri abusi, che poi si ripercuotono dannosamente nei confronti dei cittadini, della salute dei cittadini. Innanzitutto buongiorno a tutti, e ci tengo a precisare che la vigilanza delle forze dell'ordine, dei servizi veterinari territorialmente competenti, in particolare sul mare, rappresenta un'iniziativa notevole, perché consente di poter togliere dal mercato in maniera coattiva, in questo caso, ingenti quantitativi di molluschi. Infatti io le porto l'esperienza di un'Asola metropolitana, che è la città di Napoli. Noi per la verità come Asola Napoli non siamo competenti sul territorio di Torre Annunziata, però ho portato i dati di attività simile svolte nello scorso anno da parte delle autorità sanitarie competenti congiuntamente alle forze dell'ordine. Tenga conto che nello scorso anno nel porto di Napoli abbiamo sottratto al consumo in un solo sequestro circa 3.000 quintali, praticamente in una sola giornata, di molluschi che venivano in quel caso allevati nel porto di Napoli, nei pressi di San Giovanni. Tenga conto che per poter rimuovere quel filare lungo circa un chilometro noi utilizzammo insieme le forze dell'ordine un rimorchiatore. Le porto i dati dello scorso anno delle attività di vigilanza di tipo repressivo sul mare degli allevamenti abusivi. Abbiamo sequestrato circa 380 praticamente tonnellate di molluschi bivalvi, in particolare di cozze. Ci fu anche un ulteriore sequestro lo scorso anno condotto proprio nel porto di Torre Annunziata, congiuntamente la Regione Campania attraverso il proprio assessorato alla sanità e altre forze dell'ordine, carabinieri e capitaneria, che portò a un sequestro analogo a quello condotto in maniera egregia dalla Capitaneria di Porto. Ecco. E confermo che molto spesso gli esiti analitici, da una parte che eseguiamo noi con i laboratori ufficiali, effettivamente quando questi molluschi vengono allevati in specchi d'acqua non conformi dalla normativa, danno qualche preoccupazione per il consumatore, sia per quanto riguarda il contenuto in batteri che per inquinanti chimici. Assolutamente, poi ricordiamo soprattutto chi come me non è più un diciottenne, i casi negli anni 70 purtroppo di malattie non propriamente simpatiche come il colera, che originarono proprio da una partita di cozze che provenivano proprio dalla Campania. Io però le vorrei chiedere questo, Caputo, è la stessa domanda, poi la faccio anche al tenente colonnello Ottaiano. Lei ci ha parlato di un chilometro di filare che addirittura per il quale addirittura è dovuto entrare in campo, in porto, in mare, un rimorchiatore per portarselo via, per distruggere questo filare di cozze e mitili abusivi. Le chiedo, ma un chilometro? Un filare di un chilometro, un sequestro di 3.000 quintali, ecco, in una sola giornata. Ecco, non nasce in un giorno, cioè su quali connivenze, su quali occhi chiusi possono contare questi malfattori, secondo lei, Caputo? Guardi, io le dico la nostra esperienza. Le forze dell'ordine in generale, le diceva prima il comandante, ciclicamente effettuano delle operazioni che sono difficilissime da portare in porto. Forse quella proprio del porto di Torre Annunziata, probabilmente anche per un problema logistico, potrebbe potrebbe apparentemente sembrare più semplice, però le posso garantire che questo richiede poter attivare un servizio di queste portate, richiede uno sforzo organizzativo di notevole entità. Ah, non lo metto in dubbio, assolutamente. E la stessa domanda appunto a lei, colonnello Ottaiano, com'è possibile che un chilometro di fasolari, di vongole, di cozze, di ossiche, di tartufi di mare, insomma, quanto di più buono ci sarebbe sul mercato possa essere allevato in questa maniera? Chi è che chiude gli occhi? Gli amministratori, le autorità portuali, oppure proprio la forza del crimine talmente elevato da poter contare su una rete di omertà enorme, ma una rete di omertà che poi, ricordiamolo, danneggia tutti, perché sicuramente ci sarà del consumo domestico, ma magari poi queste cozze prendono chissà quali vie per l'Italia. Per quanto riguarda la nostra esperienza, il nostro porto non è che ci sono filari lunghi un chilometro come a Napoli. Napoli ha un'estensione di bacino sicuramente molto più elevata rispetto a quella di Torre Annunziata, in particolare nel braccio del porto dove poi noi troviamo questi allevamenti abusivi. In realtà ci sono dei filari che vengono celati molto bene, perché ci sono dei cestelli in cui sono contenuti questi frutti di mare che affondano, quindi non è che ci sono delle boe di rilevamento in cui poi si possano vedere facilmente. Noi ricorriamo all'opera dei nostri sommozzatori che per trovarli, né, che da sopra non è che si possano vedere tanto certo, facilmente. Certo. È chiaro che la vigilanza noi la eseguiamo anche in tempo di notte, però lei immagini, noi non possiamo avere una pattuglia fissa sul porto H24 in quello specchio d'acqua per controllare se questi malviventi, insomma, per dissuadere H24 mi prende assolutamente. No, è importante. Neanche l'autorità portuale, perché l'autorità portuale comunque collabora con noi, quindi voglio dire, anzi, tante volte sono loro che ci segnalano questa attività e è un concorso facciamo questo tipo di attività repressiva. No, anzi, è assolutamente importante quello che lei sottolinea, vale a dire il fatto che comunque voi ci siete sempre presenti, così come del resto anche i servizi veterinari della città di Napoli. Io ringrazio entrambi gli ospiti per la chiacchierata che con me hanno voluto condurre. Grazie in regia Pietro La Corte, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.